sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui. Qui. Qui. Di Matteo Caccia. La mia guida fa un po' fatica. Gli chiedo se è tutto ok. Mi dice che non si è riposato bene. Non so se preoccuparmi, pensandomi su questo sentiero nero come la pece in piena notte con luglio di forma. Si riprende e in poco più di 4 ore siamo al Gilliam's Point, a 5.700 metri d'altitudine. Mi chiamo Alberto Brunelli, lavoro nel campo della consulenza, sono nato, studiato e lavoro a Milano, non sono sposato. È giovedì, sono le 16:08 minuti, è il 17 di novembre, questa è Radio 24 e ogni tanto io mi rendo conto che forse parlo un po' troppo per metafore, perché quando oggi a tutti quelli che seguono il programma anche attraverso il profilo del programma che è su Facebook ovviamente, che è Matteo Caccia, io sono qui, ho chiesto semplicemente di raccontarmi qual era l'ultima montagna che hanno scalato, sono arrivati una marea di messaggi che raccontavano montagne metaforiche ovviamente, no? Per cui la ricerca di un lavoro oppure un rapporto finito male da cui insomma si cercava di rialzarsi. E no, è che oggi si parla proprio di montagna, nel senso che il racconto che è arrivato fa parte della categoria montagna, l'ha scritto Alberto e racconta nella fattispecie della sua salita al Kilimangiaro, che ho scoperto praticamente oggi da Tiziano Bonini che è una montagna dove fa caldo, dove fino a una certa altitudine, fino a 4.000 metri fa caldo semplicemente perché è in Africa. Però l'argomento non sono le terribili montagne che state scalando nella vostra vita, ma proprio le montagne, cioè i montarozzi, le colline o i picchi, l'ultimo picco che avete scalato. 349-238-6666. Paolo, ad esempio, che scrive: proprio sabato scorso il Monte Tarino. Dov'è il Monte Tarino? Qua abbiamo due scout di là. Paolino, niente. Marco, fisicamente, e vedi appunto fuori di metafora, quella metaforica la sto ancora scalando alla ricerca di un lavoro, e va bene. Fisicamente è stata la Jungfrau. Niente, proprio ragazzi, forse Austria o forse Germania, là, però essendo là è femminile, là, forse anche la vetta Jungfrau, qua stiamo entrando in un ginepraio, io già lo so. 349-238-6666. Titta invece mi scrive: il Monte San Defendente ad Esinolario, 10 minuti di salita e poi un gran panorama sul lago di Lecco, Bellagio, Prealpi e Alpi, da non perdere. Qualunque sia la vostra ultima montagna che avete scalato, ripeto però, una montagna vera e propria, ok? Anche se è una collina, vale ugualmente. Tra l'altro, se avete delle foto da caricare, perché si è soliti sempre scattarsi una foto quando si è in cima, giusto? Tutti tranne Alberto, poi vi racconterò perché. Se avete una foto da caricare, le stiamo raccogliendo tutte sul profilo del programma, che è sempre quello che è Matteo Caccia, io sono qui. Mi ricordo la foto del papà del mio amico Mauro, il Luigi, che quando andavamo a casa sua in montagna a fare di solito a mangiare per Capodanno, c'era questa foto che Luigi aveva scattato in cima al Monte Rosa, al rifugio Margherita, giusto? E c'è una croce al rifugio Margherita, c'è una croce dappertutto sulle vette, mi sbaglio, perché c'è una croce su tutte le vette? Niente, due boy scout dall'altra parte che non sanno perché c'è una croce sulle vette. Capanna Margherita invece mi sa che c'è una croce, Tiziano, non lo so, però comunque insomma il Luigi guarda tutti dall'alto della montagna con una croce alle spalle. Ecco, vorrei vedere tutte le vostre foto piene di croci o di madonnine o quello che sono sul profilo del programma Matteo Caccia, io sono qui. Intanto arrivano Monte Candele, 1985 metri in Abruzzo, Monte Sacro a Roma, l'argine del Secchia. Cos'è? L'argine del Secchia sarà un fiume, sarà l'argine di un fiume. Vabbè, questa niente, è uno che mi scrive bella zio, quindi scusami, ma mi viene da non leggerlo. Le montagne della luna, cioè il Ruvenzori. Pietro, se qualcuno sa che cos'è lo Jungfrau, sono le montagne della luna, forse Pietro mi sta dicendo questo. O forse no, o forse stiamo facendo una confusione enorme. Vi ripeto però, il numero per scrivere l'ultima montagna su cui siete saliti è sempre quello, 349-238-6666. Per sentire la storia di Alberto, invece, state lì. Dopo molti rinvii, a 58 anni, mi decido a salire sul Kilimangiaro. È gennaio del 2008, 10 anni dopo aver toccato la cima del Monte Bianco. Sulle Alpi però era agosto, l'8 di agosto. Se ci riesco questa volta arriverò a Uru Peak, 5.855 metri, l'8 di gennaio. Ho fatto un po' di giri in Kenya, quindi assumo malarone. Non è consigliabile per una salita rapida, anzi una salita rapida non è mai consigliabile se ci si vuole evitare il mal di montagna. Da Nairobi arrivo all'aeroporto del Kilimanjaro. Già dall'aereo vedo la grande montagna. Strisce di nubi lambiscono la cima. Dormo a Moshi, il villaggio più vicino al gate d'ingresso al parco. Thomas, la mia guida, mi viene a trovare il pomeriggio tardi per il briefing. In realtà controlla che i pantaloni siano impermeabili, che le scarpe siano adeguate, che il parco sia abbastanza pesante. Il tempo dovrebbe essere buono, ma ci sarà molto freddo in cima e vento, molto vento. Il mio impatto con la Tanzania è stato quello di arrivare a un territorio molto povero. La zona che mi mangiarono forse un po' più privilegiata perché, diciamo, la zona almeno Arusha, Moshi, quelli che sono i centri abitati più importanti sotto le pendici di Kilimanjaro, perché c'è coltivazione di caffè, un po' di banane e quindi hanno una minore povertà. Mi passa a prendere al mattino presto. Mi fa salire sul pianale di un pick-up. Un po' di chilometri insieme a bombole di gas, ortaggi, taniche d'acqua. Al gate pago l'ingresso al parco, pesano i carichi. Poi, voltato l'angolo, i portatori spariscono. Ne rimane uno solo, con un carico spaventoso. Io ho con me uno zaino di 15 kg, sacco a pelo, beauty, medicine, ricambi e calze, molte calze. Arrivo a Mandara, 2700 metri. Ci sono capanne di legno da 8 persone divise in due piccoli ricoveri da 4. Sono il primo ad essere arrivato e mi sistemo sulla coccetta in alto. Arriva uno scroscio d'acqua e di pioggia tropicale violentissimo. Dura mezz'ora. Appena cessato entrano 3 ragazzi. Una coppia di spagnoli e una ragazza che arriva dalla California, ai tratti asiatici. In 3 avranno un'età complessiva di poco superiore alla mia. Sono inzuppati fradici e sono contento di aver evitato la pioggia di pochi minuti fa. Il giorno dopo il trekking è un po' più lungo, più di 15 chilometri. Dappertutto lobelie, fiori di tutti i colori, farfalle, una vegetazione ancora ricca. Mi stupisce data l'altitudine. Ci accompagna fino a Horombo Hut, 3700 metri di altitudine. Siamo ancora tutti insieme, i ragazzi ed io, anche se con ritmi diversi. Qui l'amica californiana ci saluta e decide di tornare indietro. A Kibo, 4700 metri, non si dorme. Ci si riposa in capanne di lamiera e con camerate grandi, dove in realtà si aspetta solo l'ora adatta per partire, verso mezzanotte, all'attacco della cima. Mentre mi rigiro nel sacco a pelo vedo incisa, sul legno della cuccetta sopra la mia, una scritta che recita più o meno così. Anche tu non dormi? Anche tu pensi alla salita? Saluti da John, che è passato qui prima di te. Era scritta in inglese. Poteva essere you two still awake, you two concerned, hi John. Ed era, mi sembra, come incisa con un coltellino e poi un po' annerita. Circa mezzanotte accendo la frontale, do la mia torcia a Thomas e partiamo. È un sentiero che sale serpeggiando su un fondo morenico. Di notte è un po' ghiacciato, ma non troppo. Non si scivola. Non si usano i ramponi su questa montagna. E nemmeno su questa via. Thomas fa un po' di fatica. Gli chiedo se è tutto ok. Mi dice che non si è riposato bene e io non so se preoccuparmi, pensandomi su questo sentiero nero come la pece in piena notte con Thomas giù di forma. Poi si riprende però e in poco più di 4 ore siamo al Gillian's Point, 5700 metri. Da lì si cammina lungo il bordo del vulcano fino a che il cammino si apre. Il fondo diventa sottile e scuro come la cenere. Il vento diventa impetuoso, la temperatura crolla. Non posso più bere l'acqua che è nel mio zaino perché si è completamente ghiacciata. Un po' prima delle 6 siamo a Uru Peak, 5855 metri. È il punto più alto dell'Africa. Mi fermo a guardare l'alba sul ghiacciaio sotto di me, che si tinge di rosso. Da sotto il parco prendo la macchina fotografica. È ghiacciata. E da lì, proprio dalla cima, non riesco nemmeno a scattare una foto. Guardo Thomas e rido. E gli racconto che quando arrivai alle 8 del mattino in vetta al bianco, non avevo neppure portato una macchina fotografica. Guardiamo l'Africa sotto di noi e con le prime luci ci incamminiamo sulla via del ritorno. Io quando penso alla montagna penso alla sopravvivenza. Non so perché, non penso alle passeggiate, allo sci, ai rifugi con la polenta, che poi le faccio anche, ci vado. Però se penso alla montagna, penso a condizioni di vita in cui la vita stessa è difficile, al punto da metterla in pericolo. Quando sento le notizie al telegiornale che parlano di alpinisti che perdono la vita nonostante siano esperti e capaci, ammetto che non mi stupisco particolarmente. La montagna, forse proprio perché è ripida e sale, sembra sempre pronta a disarcionarti, a buttarti giù, a farti ruzzolare sul fianco fino a valle, un po' come a dire «lasciami in pace, io non ti do fastidio, tu non darlo a me». La sopravvivenza è un'esperienza che non sperimentano tutti, io ad esempio non so cosa significhi. Non so cosa voglia dire trovarsi a razionare il cibo, non so cosa voglia dire perdere il senso del tempo o lottare con spettri molto più grandi di quelli che ti circondano in quel momento. E quando penso a momenti come questo, penso a un libro e a un film che si chiamano Touching the Void, che letteralmente significa toccando il vuoto, ma in Italia è stato tradotto con questo titolo, La morte sospesa. La storia è questa qua. Ci sono due ragazzi inglesi, si chiamano Joe e Simon, hanno 25 anni. Sono tutti e due alpinisti, ma non troppo, non professionisti. Partono dall'Inghilterra e vanno in Perù, perché in Perù c'è una montagna che si chiama Siula Grande. È alta 6.536 metri e la vogliono scalare. E la vogliono fare attraverso una via che nessuno ha ancora mai provata. È la parete ovest della montagna. Sono preparati e allenati e vogliono fare quella montagna perché è una montagna in cui si è totalmente isolati, in cui non puoi permetterti di sbagliare, perché quello sarebbe il tuo ultimo sbaglio. Nei suoi appunti, Joe scrive esattamente questa frase. Marzo 1985, campo base. Gelo durante la notte. Bel tempo stamani. Devo ancora abituarmi all'essere qui. Un'impressione di solitudine terrificante ed entusiasmante al tempo stesso. Infinitamente meglio che sulle Alpi. Niente orde di alpinisti, elicotteri, squadre di soccorso. Siamo soli. Noi e le montagne. Sapevamo quanti prima di noi non ce l'avevano fatta, quindi sapevamo che era dura. Sarà proprio quella solitudine a metterlo faccia a faccia con la sua personale sopravvivenza. E tutto accadrà in cima al Siula Grande, quando dopo aver raggiunto la vetta i due iniziano a scendere, solo che in un attimo si alza una tormenta e uno dei due, Joe, fa un errore banale, piccolo, scivola. O forse ricordo male, forse la neve gli frana sotto i piedi. Comunque cade. E cade per un centinaio di metri lungo il fianco a strapiombo della montagna. Lo salva il fatto che i due amici sono legati ad una corda. E quindi Simon, quello sopra, lo regge. Anche quando lui è sotto, ed è finito sotto a un tetto di roccia. Quindi non ha appigli e non ha alcuna possibilità di tornare su o di scendere. L'amico non lo sente più, quello sopra. Ne percepisce solo il peso attraverso la corda che ha legato intorno alla vita. Solo che questo peso comincia a trascinarlo giù, lungo la neve che non lo regge e che rischia di farlo finire nel baratro insieme all'amico. Simon quindi lo regge per un tempo che nemmeno lui sa bene dire quanto sia, ma sembra infinito e inutile. Un tempo alla fine del quale lui fa una cosa che non è solo un gesto di emergenza, è proprio un modo di vivere, anzi, di sopravvivere. Taglia la corda. Si libera del peso dell'amico e anche se è a pezzi riesce comunque a rientrare al campo base da solo. Ecco, quello che succede da qui in avanti fa parte della storia di sopravvivenza che è più grande di questo episodio. Ed è più grande di qualsiasi montagna. È il mondo in cui è costretto a vivere una persona finita in un crepaccio con due gambe rotte, che può contare esclusivamente sulle proprie forze per riconquistare il diritto a rimanere in vita. E c'è proprio una realtà palpabile, sia nel film sia nel libro, in cui Joe è immerso ed è una realtà fatta di ipotermia, di congelamenti, di neve, ghiaccio, di rocce, di seracchi, di pietraie. E poi ce n'è un'altra di realtà, che è quella della sopravvivenza, fatta di solitudine, di disperazione, di paure e di antichi terrori che riemergono. Mentre l'idea del tempo si dilata e si comprime in continuazione, fino a diventare quasi incomprensibile. È un bel libro ed è anche un bel film. Guardatevelo che comunque finisce bene. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Allora, titolo del film è La morte sospesa in italiano, Touch in the Void in inglese, ma lo trovate col titolo italiano. Primo. Secondo, qualcuno mi scrive: era legato perché si era rotto una gamba? No, non era legato perché si era rotto una gamba, era legato perché erano legati e poi si è rotto una gamba cadendo. Qualcuno mi scrive: se ne è rotta solo una di gambe, non due. È probabile, però non era messo comunque molto bene. 3492386666 mi scrivono che lo Jungfrau è nell'Oberland Bernese, in Svizzera, di fianco al Liger. Sul ghiacciaio c'è l'osservatorio astronomico più alto d'Europa, mentre il Ruwenzori è in Africa. Vabbè, ma questo l'avevo detto, già non mi ricordo, ho detto una roba che non c'entrava, ho detto che era da qualche altra parte. Vabbè, comunque, 3492386666, la vostra ultima montagna. Non so se però il Kilimangiaro è stata l'ultima montagna di Alberto. Pronto Alberto? Sì, eccomi qua. Ciao, come stai? Ciao, bene, bene, bene, grazie. Ciao Matteo. Senti, è stata la tua ultima montagna il Kilimangiaro che hai fatto? Ma come salita probabilmente sì. Sono stato poi in Patagonia dove ho fatto un lungo trekking. Però in piano. Del Fitzroy e del Sierra Torre, però . Ero sì. Ero in piano, sono salito un po' sul ghiacciaio del Sierra Torre, ma non sono ovviamente salito sul Sierra Torre, che è la montagna credo più difficile della Terra. Senti, ma tu tutti questi viaggi te li fai da solo, Alberto? Spesso sì. Ma e te li organizzi da solo oppure tipo avventure nel mondo tutti insieme appassionatamente? Cerco di farlo il più possibile da solo. Senti, organizzandomi anche abbastanza da solo. Tu quanti anni avevi quando hai fatto il Kilimangiaro? Mi hai scritto? 58. Quindi adesso ne hai più o meno 61? Ne ho 60, sì, ne vado contro il 61. Senti, e sei un consulente? Sì, sono un consulente d'azienda. Di che cosa? Mi occupo di lato finanziario e assicurativo. Beh, quindi sarei gettonatissimo in questo periodo. Abbastanza, sì. Senti, ma sei in ufficio in questo momento, quindi? No, in questo momento sono nel mio studio. Senti, dimmi invece qual è la prossima montagna che hai in mente di fare a questo punto. Allora, non proprio una montagna, il viaggio che mi sta più a cuore è andare tra il Tibet e il Nepal e visitare un territorio che si chiama Mustang, e che è un territorio piuttosto alto, quindi si parla sempre di altopiani, territori alti più o meno 5.000 metri. Guarda Alberto, io mi sono veramente quasi innamorato della tua cadenza, perché c'hai questo modo di fare un po' che non si capisce se quando racconti una cosa che immagino ti appassioni moltissimo, perché i viaggi mi sembra che non te ne freghi niente, però in realtà c'hai questo tono: guarda, vado nel Mustang, che tra l'altro mi ha detto Tiziano Bolini essere il luogo che preferisce. Ma tra l'altro il Mustang non è il nome di un cavallo anche? Di una... Sì. Che arriva da lì? È il nome di un cavallo. Non so se il cavallo arriva da lì, io lo conosco solo come territorio che è piazzato grosso modo tra il Tibet e il Nepal. Va bene, ma in fondo anche chi se ne frega, no, Alberto, di tutti questi dettagli del cavallo. Senti, io ti ringrazio moltissimo per il racconto e per la telefonata. E più tardi racconterò la tua foto che mi divertiva moltissimo. Ti ringrazio ancora. Grazie. Ciao Alberto, ciao, grazie. Voi siete qui. Nella foto che mi ha mandato Alberto è uno splendido 58enne, un giovane 58enne, in grande forma. È su una montagna, è una montagna abbastanza calda, o comunque è in basso, perché sembra vestito da passeggiata della domenica in centro. Ha un maglioncino, ha dei pantaloni di velluto, degli scarponi, degli occhiali di quelli che ti proteggono dai raggi UVA. UVA fino a 8.000 metri e secondo me a giudicare dal sentiero nero come la pece è proprio sul Kilimangiaro. Io ringrazio tutti quelli, ed è più di uno, veramente siete veramente simpatici, che mi hanno scritto: il rilievo più alto che ho scalato è il Monte di Venere. Grazie. No, nel senso che ne sono arrivati 5 o 6. Allora facciamo che abbiamo deciso che siete i più simpatici della Terra e andiamo avanti. Il monte, la mia ultima montagna è il Vesuvio, in macchina fino alla cima e poi gli ultimi 50 metri a piedi. Il Monte Guglielmo, vicino al Lago d'Iseo, 1950 metri. Monte Osero o Osero, nel Piacentino. E poi però era arrivato un messaggio della serie Fuori di Metafora, che era questo qua, il messaggio di Fabrizio. Negli ultimi 3 anni ho sofferto di attacchi di panico. La montagna mi piaceva, ma ci ho rinunciato, come la grande maggioranza dei viaggi. Dopo però una lenta scalata, durata appunto 3 anni e con un lento miglioramento, quest'estate c'è stata una bella svolta. Ironia della sorte, dell'amore e della passione. Mazza, un sacco di ironie, Fabrizio. Ironia della sorte, dell'amore e della passione, ho lavorato 3 mesi in una malga della Val di Non, vivendo e svolgendo le mie mansioni tra i 1488 e i 1800 metri, tra mucche, immensi boschi di abeti e una granitica cultura montanara. Finita la stagione sono tornato nel mio paese adottivo della Bassa Veronese, a 31 metri sul livello del mare. Traumatico. La parte finale della salita, quando pensi di essere arrivato e invece manca il pezzo più ripido, è la parte più difficile. Allora ti fermi, ti sfoghi, fai un bel respiro, dici mi prendo tutto il tempo che mi serve, ti rimetti lo zaino in spalla e avanti, fino alla vetta. Grazie a Fabrizio per questo messaggio, e ora vorrei raccontarvi, diciamo, dell'ultima montagna che io ho scalato, di cui vi ho già parlato, di cui Tiziano Bonini e Paolino Corleoni in combutta assoluta ogni tanto mandano delle brevi registrazioni. Di fatto, ecco esattamente queste. Dall'altra vetta siamo a 261 metri dalla esatto. La prima vetta è stata raggiunta. Era il giugno del 2010. Guarda, però sembra uscito dalla crisi del 29. Era il giugno del 2010, quando ancora si pensava che fosse utile realizzare tutti i propri desideri e non morirne invece per l'altitudine, quando insieme a Tiziano e alla nostra guida, di cui mi dimentico sempre il nome, Stefano Perrone, siamo saliti fino al Gran Paradiso, non fino al Gran Paradiso, appena prima del Gran Paradiso. Il tutto è durato neanche 24 ore più o meno, insomma due giorni, un giorno e mezzo, e intervallato da una notte dove abbiamo dormito in un rifugio a 2007, poco più di 2007. È stata una notte travagliata perché sapete che in alto si fa fatica a dormire, e soprattutto io un pochettino di paura ce l'avevo. Oltre a questa testimonianza che avete appena sentito, che è stata ripresa con una videocamera, io la notte non riuscivo a dormire, mi sono alzato e ho fatto una cosa che di solito faccio per provare a rilassarmi un po', e ho scritto un piccolo diario. Sono le 2 del mattino e sono sveglio. Non lo so se Tiziano e la nostra guida stanno dormendo. Mi sentivo che si giravano nei letti sotto di me. Abbiamo mangiato delle lasagne e una polenta per cena alle 7 di sera. Il rifugio è semivuoto e mi sa che domani tutti quelli che abbiamo incrociato stasera ce li ritroveremo sul sentiero. Non ho mai avuto problemi a dormire. Credo che questi arrivino dall'altitudine. Ci troviamo al rifugio Chabot, a 2750 metri di altitudine. È notte, è fine giugno e si congela. La sveglia domani è prevista per le 4:30. Facciamo colazione e partiamo verso il Gran Paradiso. Oggi la nostra guida si è accorta che mi mancano le ghette. Io ho pensato che fosse prevedibile che mi mancasse qualcosa, soprattutto non sapendo nemmeno cosa siano le ghette. Lui mi ha detto che servono a evitare che la neve si infili sotto i pantaloni e da lì negli scarponi. Ma dice che non c'è problema, mi nastrerà i pantaloni agli scarponi con del nastro isolante americano. Mi domando cosa ci faccio qui se non so nemmeno a cosa serve una cosa che mi manca e che invece è indispensabile. Penso che forse ho esagerato, che forse non so fare tutto quello che penso di saper fare e che prima o poi in qualche modo questa cosa la pagherò. In questo momento sono nel ristorante del rifugio, ho in mano una guida che parla del Gran Paradiso. Leggo un paio di cose per cercare di calmarmi. Gran Paradiso, via normale, difficoltà PD. La salita da questo versante presenta uno scenario più alpinistico, di conseguenza bisogna fare più attenzione, essendo il ghiacciaio dell'Avesio più crepacciato rispetto alla classica salita del Vittorio Emanuele. Si prosegue piegando a sinistra verso il colle di Montcorvet. E sempre a sinistra si risale il ripido pendio che, dopo l'attraversamento della crepaccia terminale e il superamento delle facili roccette, porta alla cima della Madonnina, sul Gran Paradiso. Quota metri 4061. Per la discesa percorrere lo stesso tracciato oppure alla schiena d'asino piegare a sinistra per il Vittorio Emanuele. Bene, ho capito la metà di quello che ho letto. Ma c'è Tiziano e c'è la guida. Ho deciso che mi fido di loro. Ora vado a dormire. Guardo fuori dalla finestra, non c'è un filo di luna, ma la vetta del Gran Paradiso è piena di neve e splende di una luce azzurra. My brother, where do you intend to go tonight? I heard that you missed your connecting flight to the Blue Ridge Mountain over near Tennessee. Intanto intanto di là dalla regia, non so se Paolino o Tiziano, mi hanno dato le varie difficoltà alpinistiche, cioè la scala delle difficoltà, visto che sulla guida che avevo trovato quella notte al rifugio avevo scoperto che la salita al Gran Paradiso era difficoltà PD. Difficoltà PD sta per poco difficile. Presenta qualche difficoltà alpinistica su rocce, neve, pendii di neve, ghiaccio fino a 35-40 gradi. Oh, e Bonini mi aveva portato come se niente fosse. Intanto Emanuele mi scrive che c'è una croce su ogni cima perché la montagna è una metafora e un topos biblico. La montagna è un topos biblico? È un po' come... Quello era l'ultimo discorso di Martin Luther King, quello prima di venire ucciso, che parla, no? Dice, quando dice I've been to the mountain top, sono stato sulla cima della montagna, però... Non per questo, no, per forza si debba avere, cioè debba essere in assoluto un topos biblico. Però, a proposito di topos biblico, niente, mi piace la parola topos biblico, la locuzione, l'ho ripetuta già quattro volte, topos biblico, topos biblico, topos biblico. Eccolo qua. Lucia, 3 anni fa sono salita in cima al Sinai, a proposito di topos biblico. Dopo aver visitato il monastero di Santa Caterina, gambe a pezzi, viaggio nella notte a seguire la guida. Campi, ristoro a prendere uno strano caffè e poi su in alto verso un'alba che si è aperta sul mondo. Ancora freddo, poi caldo. Caldo e ancora caldo. La vista era mozzafiata e ho capito perché Dio si è scelto quella montagna. Beh, se l'ha scelta proprio lui, perché sul Sinai cosa succede? Sul Sinai le tavole, giusto? Le 10 tavole. È proprio un topos biblico. Grazie a quelli che hanno fatto sì che questa trasmissione fosse in onda anche oggi: Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Alberto e parlava di montagne. La storia di domani invece è la storia di Federico e parla di quando credevamo di essere dei supereroi. Avevamo fatto la spesa e stavamo tornando verso casa. Mia mamma era carica come un mulo di sacchetti. Io ero piccolo, piccolo tipo che le mamme cariche di sacchetti come i muli non ti chiedono neanche di portare i sacchetti perché sei troppo piccolo. Ronzavo attorno a mia mamma facendo un casino senza senso e agitando per aria una macchinina appena ricevuta in regalo.